24 mattino. Le mie guida per gli estetiste, la mia ragazza fa l'estetista a un negozio, sono uscite ieri sera, quindi hanno adesso 4 giorni per organizzarsi e per poter ripartire lunedì 18. Buona giornata. Tutte le aziende, tutte le attività già sono pronte, ma perché non farle ripartire e poi evidentemente effettuare degli aggiustamenti successivamente qualora ce ne sia il bisogno? I membri di una famiglia vivono in casa senza mascherina. Se vanno al ristorante devono rispettare la distanza? Saranno sicuramente pronte a breve tutta una serie di altre frequently asked questions del governo sul sito per aiutarci a capire che cosa succede. Lieti che in alcuni luoghi siano già arrivate le linee guida per la riapertura, la sanificazione e tutto il resto. Sì, sì, molti sono pronti a ripartire e il 18 si ripartirà in gran parte delle regioni lunedì prossimo. Sono le 7:18 minuti, la seconda parte di 24 mattino di martedì 12 maggio. Al microfono sempre Simone Spezia ed è questa la parte dedicata alla rassegna stampa, come sapete. E come sempre un'occhiata innanzitutto alle aperture dei quotidiani con il Corriere della Sera che si concentra sugli aspetti politici del decreto rilancio, veti e trattative sul decreto, titola il Corriere della Sera che dedica spazio ovviamente anche a Silvia Romano, la partita chiusa in Qatar, poi il viaggio su un trattore, il racconto di Fiorenza Sarzanini. Riaprono bar, ristoranti e negozi, titola il quotidiano nazionale, citando l'accordo raggiunto ieri tra la conferenza delle regioni e il governo. E a centropagina la foto di una farmacista che mostra delle mascherine e il titolo è Sparite, le mascherine chirurgiche da 50 centesimi sono già esaurite e il commissario accusa i farmacisti. La Repubblica, che pure tiene in alto la foto di Silvia Romano, ci dice con Giuliano Foschini e Fabio Tonacci che in un PC c'è la chiave del sequestro. Il titolo forte lo fa sulla politica. Di Maio, l'ora della fronda, il tema sono gli scontri interni al Movimento 5 Stelle che portano poi tensioni anche nell'esecutivo. E tensioni sociali vede La Stampa, che pubblica una ricerca di Alessandra Ghisleri con il Nord a rischio di tensioni sociali ed è questa l'apertura con governo in ritardo, il 70% teme dei conflitti e poi ovviamente si parla anche di tutto il resto che ha a che fare con Covid, i ristoranti, i bar, i barbieri aperti a lunedì, ma decidono le regioni. Il Fatto Quotidiano ci racconta a proposito di regioni che siamo nel buio dei dati regionali ed è proprio su questo il titolo, lunedì ristoranti e bar, ma nel buio dei dati regionali, ossia non ci sono numeri certi in arrivo dalle regioni. Il Messaggero ci fa sapere che le regioni riapriranno su misura, cioè da regione a regione varieranno le cose, c'è l'intesa su parrucchieri e bar dal 18, ma percorsi differenziati per ogni territorio. Non sarà facile capirci qualcosa. Il Giornale e Libero aprono sul ritorno in Italia di Silvia Romano, il Giornale, cosa non torna, dubbi, milioni, silenzi su Silvia, troppi misteri. Il Giornale dedica due pagine appunto a tutto questo con una serie di domande. Perché il governo ha deciso di spettacolarizzare il rientro? Silvia Romano condanna senza se, senza mai i suoi rapitori. La cooperante è stata più ospite che ostaggio della costola di Al-Qaeda. Queste le domande, alcune delle domande che pone il Giornale. Libero, Silvia, storia assurda, se stava bene in Africa perché è tornata? Si chiede il quotidiano. La Verità invece ci porta sulle questioni economiche sul decreto rilancio, le priorità del governo, i soldi vanno agli esattori delle tasse, i ministri si affrettano a inserire nel decreto in gestazione l'aiutino per l'Agenzia delle Entrate, così potrà distribuire anche i premi ai dipendenti, lo scrive appunto il direttore Maurizio Belpietro. Il Sole 24 Ore ci parla della fase 2, il 18 riapre tutto, parola alle regioni e poi gli aspetti economici del decreto rilancio, via l'IRAP di giugno per tutte le imprese fino a 250 milioni. Pubblica il Sole 24 Ore anche una lettera delle Confindustrie italiana, francese e tedesca, che si rivolgono ai governi indicando quelle che sono le priorità per la ripresa europea: solidarietà, sostenibilità e digitalizzazione. Sul tema migranti e scontri all'interno della maggioranza, all'interno del Movimento 5 Stelle, c'è anche il titolo del manifesto, Crimi e misfatti, è il gioco di parole sul nome del capo politico attuale, sull'attuale capo politico del Movimento 5 Stelle. E Avvenire, il rilancio parte piano, il Movimento 5 Stelle frena ancora sui permessi di soggiorno di 6 mesi, e poi appunto il tema è questo decreto rilancio che doveva essere approvato nel fine settimana, poi si è rinviato prima ad aprile, poi nel fine settimana, poi si è rinviato a ieri, poi si è rinviato a oggi, e speriamo a questo punto che oggi venga approvato pur in tutta la sua complessità. Ci arriveremo tra un attimo a queste questioni politiche, andando a vedere anche un po' che cosa succede appunto all'interno del Movimento 5 Stelle. Iniziamo però come sempre da qualcosa di diverso, e questo qualcosa di diverso è un tema che anche qua è rimasto un po' sotto traccia in questi giorni di lockdown, e ha a che fare con i bambini. Abbiamo parlato nelle settimane scorse, ce ne siamo occupati in rassegna stampa e non solo, lo sapete bene, del rischio che correvano e che hanno corso, e di quello che poi è effettivamente successo nelle case, che ha riguardato le donne vittime di violenza, che si sono ritrovate di fatto in casa chiuse con i loro aguzzini e senza possibilità di uscire. Abbiamo parlato dell'incremento delle telefonate che sono arrivate ai centri antiviolenza dopo una fase di silenzio. Ebbene, poi c'è anche il tema dei bambini. Telefono Azzurro denuncia, che ci racconta la stampa pagina 15, che le violenze sui bambini sono cresciute del 20% in questo periodo. Cosa è successo? Scrive Luca Monticelli appunto a pagina 15 della stampa: dietro le porte chiuse dei tanti minori reclusi nelle loro stanze in questi 2 mesi di lockdown, senza scuola, amici, nonni, palestra, piscina, come hanno retto all'isolamento i figli degli italiani, soprattutto quelli delle famiglie più in difficoltà? Le risposte vengono eluse dalla politica e dai centri economici, che hanno concentrato l'attenzione e gli sforzi quasi esclusivamente sulla ripresa delle attività produttive. I diritti dei più deboli sono stati derubricati in nome della sicurezza, senza provare mai a bilanciare le restrizioni sanitarie con i bisogni dei bambini, che non sono solo l'istruzione ma anche il gioco e la socialità. Simona Maurino, referente del servizio emergenza infanzia e Telefono Azzurro, spiega alla stampa: le richieste di aiuto per casi di abuso e di violenza domestica sono aumentate del 20%, mentre sono salite del 40% le chiamate dei ragazzi che ci hanno confidato di aver pensato al suicidio o che sono arrivati ad atti di autolesionismo. Situazioni drammatiche che sono tutt'altro che finite, nonostante con la fase 2 si stia procedendo a un progressivo allentamento delle limitazioni. Oggi vediamo il picco della fase acuta, sottolinea la dirigente di Telefono Azzurro, ma siamo preoccupati perché l'onda sarà ancora lunga. E non c'è solo questo, ci racconta Luca Monticelli, cita un'indagine pubblicata da Save the Children su un campione di 1000 famiglie. Ovviamente i genitori che non hanno più lavoro a causa della crisi, ma soprattutto il rischio che con i centri estivi che ancora non partono, le scuole che non si sa come riprenderanno, il pericolo concreto diventa l'abbandono degli studi, fenomeno che già riguarda il 13,7% dei ragazzi. A proposito di scuole, ieri vi avevamo citato in rassegna stampa la vicenda di Borgo Sesia, poi tornerà ad occuparsene questa mattina Alessandro Milan, lo sentirete alle 9. La vicenda di Borgo Sesia, qual era? Era quella del sindaco, che tra l'altro è anche un parlamentare leghista, il quale aveva deciso, in accordo con la dirigente scolastica, di riaprire le elementari e le materne. In che modo? Con turni, naturalmente, dalle 8 alle 18, solamente in sperimentazione, con 36 bambini, 4 o 5 bambini per classe. Ebbene, è arrivato uno stop, e questo stop sembra che perché insomma è arrivato di traverso, sembra che sia partito direttamente dalla ministra dell'istruzione Lucia Azzolina. Lo raccontano Diego Longhini e Corrado Zunino. Nuove assunzioni, altre 16.000 docenti per sostenere la ripartenza della scuola a settembre, i tentativi di sperimentare in anticipo un ritorno in classe non hanno l'appoggio del ministero. Il dietrofronte è arrivato ieri pomeriggio. Il sindaco di Borgosesi è convinto che all'origine ci sia proprio il fastidio della ministra dell'istruzione. La lettera è firmata dalla preside dell'elementare. Prima aveva detto sì all'uso delle classi al sindaco Paolo Tiramani per organizzare un servizio di assistenza per i bambini da 3 a 10 anni. La retromarcia da parte della preside è motivata dal decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri di Conte, dal fatto che l'edificio, anche se di proprietà del comune, è in concessione per i servizi scolastici fino a giugno, il tutto corredato da una nota del provveditore di Vercelli. Dietro a tutto mi sembra chiaro che ci sia, dice Tiramani, un certo fastidio da parte della ministra Azzolina rispetto alla nostra iniziativa. Tiramani fa sapere che userà le aule dell'asilo nido per i bimbi delle materne e due palestre, quelle invece sono del comune, e due palestre per gli allievi delle elementari. E dunque, di fatto, questa sperimentazione prosegue. Fin qui le scuole, fin qui le difficoltà dei bambini. E poi ci sono naturalmente le difficoltà economiche. Difficoltà economiche che spingono, racconta Alessandra Ghisleri con il suo sondaggio sulla stampa, pagina 3, che spingono gli italiani a temere che la crisi possa far scoppiare delle rivolte al nord. E i dati sono incontrovertibili, Secondo lei c'è il rischio in questo momento di importanti tensioni sociali in Italia? Sì, secondo il 65% dei cittadini del nord-ovest, secondo il 70% dei cittadini del nord-est, secondo il 60% dei cittadini del centro, e più o meno le stesse percentuali riguardano, sono lo stesso per sud e isole. Questi sono i segnali che arrivano, mentre gli italiani confermano, poi sapete qua c'è anche il grande tema che quando ti fanno una domanda in un sondaggio c'è un rischio di deviazione, per così dire, statistica, dal fatto che non vuoi ammettere di aver tenuto un comportamento sbagliato, e quindi questi dati vanno presi con le pinze, però il 96% degli italiani dice: lei in queste settimane ha rispettato gli obblighi e le restrizioni che le sono stati imposti dal governo e dalla sua regione? Sì, in maniera pressoché totale. Il 96,2% degli italiani, secondo il sondaggio di Alessandra Ghisleri. Tensioni economiche che si fanno sentire molto sul settore turistico. Prendete quello che succede a Firenze per darvi un'idea, perché poi ogni singola cosa, ogni singolo elemento ha ovviamente un riflesso su tutto il resto. Quindi quando chiude un bar e un ristorante, quando chiude un albergo, l'impatto non è solamente sull'albergo, sui lavoratori e via dicendo, ma ha un impatto poi diretto anche sulle città. Pensate alla tassa di soggiorno. Infatti, ieri i sindaci delle città turistiche si sono rivolti direttamente al governo, segnalando un problema. Ne troviamo traccia a pagina 7 del Quotidiano Nazionale, tanto che il sindaco Nardella, il sindaco di Firenze, è arrivato a dire: spengo la luce, spengo i lampioni di notte, perché senza la tassa di soggiorno su Firenze io non so come tenere in piedi i conti della città. La scomparsa dei turisti, racconta Lisa Ciardi da Firenze appunto sul Quotidiano Nazionale, e della tassa di soggiorno mette in ginocchio intere città, tanto da spingere Nardella a ipotizzare di lasciare al buio strade e piazze pur di risparmiare. Allarme bilancio delle grandi città anche da altri sindaci: Brugnaro, Venezia, De Magistris, Napoli, Orlando, Palermo, Sala, Milano e Raggi, Roma. Se non arrivano le risorse dal governo, ha detto Nardella, sto valutando di non accendere l'illuminazione pubblica, che incide per diversi milioni di euro, e mandare così avanti i servizi per imprese e cittadini, altrimenti non ci si sta dentro. D'altronde il primo cittadino aveva già manifestato più volte la sua preoccupazione col passare delle settimane, con l'aumentare dell'ammanco nelle casse comunali, ora sui 200 milioni di euro. Ma a parte i risparmi sulla bolletta, come fare per ripartire? La regione sta studiando una campagna di comunicazione. Sì, bella la campagna di comunicazione, per carità, utile, lo sappiamo perfettamente, e però insomma poco servirà se la gente ha deciso di non muoversi. Vedremo come andranno le cose. Lasciamo un attimo in sospeso questa questione degli alberghi, perché ce n'è un'altra di questione innescata proprio dagli albergatori, e in particolare la Confindustria Alberghi, che dice, ne troviamo traccia in questo caso sul Sole 24 Ore, che dice: oh ragazzi, state sganciando 3 miliardi di euro ad Alitalia e non riuscite a mettere più di 50 milioni di euro per noi. Pausa. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. Ragazzi, riguardo Silvia Romano, attenzione, allora proviamo ad estremizzare. Mettiamo che ci sono 200 volontari, 200 cooperanti che vengono tutti rapiti. Allora lo Stato cosa che deve fare? Deve pagare 200 riscatti milionari per tutti? Non tanto odio, è disprezzo nei confronti di una persona che lo Stato italiano, con i contributi di noi cittadini, ha pagato una cifra elevatissima per il riscatto, e poi le prime dichiarazioni che lei fa sono a favore di questa, come voi chiamate, conversione. Ma perché semplicemente non ci limitiamo a dire che noi non capiamo? Noi non capiamo tutto. Noi non capiamo questa ragazza, noi spesso non capiamo nulla. La signorina non si è convertita a Milano ed è diventata musulmana perché aveva voglia di cambiare religione, poi ognuno può fare come gli pare. Adesso è convertita musulmana in un gruppo terroristico dove, se non mi sbaglio, trucidonno una classe elementare e gli faceva le domande sul Corano. Oh, però il messaggio migliore è quello dell'ascoltatore che ci dice: perché non ammettiamo che non capiamo certe volte? Perché possiamo dibattere all'infinito di questa questione anche privata, che è la conversione di Silvia Romano, e che io ritengo veramente una questione privata. Però ripeto, ancora non mi avete spiegato perché si sia riversata quest'ondata d'odio nei confronti di questa ragazza, perché per me il tema è quello. Allora, vogliamo prendercela con lo Stato, con i 4 milioni di euro, forse 4 milioni, forse 1,5, non si capisce bene, che sono stati versati? Vogliamo prendercela con la ONG che l'ha mandata là? Non in sicurezza, e sia, se ne parla oggi sui giornali, adesso ci arriveremo con la rassegna stampa, dopo la pausa per il traffico, perché prima chiudiamo il capitolo economico. Vogliamo prendercela col governo, con la spettacolarizzazione, vogliamo prendercela con lo Stato che paga sempre i riscatti, tutto bene, ma non vedo la questione, non vedo il problema di prendersela con questa ragazza, che insomma, che la sua scelta sia stata forzata, non forzata, di questo non lo so, non posso entrare, no, in una questione, ripeto, così, anche così personale, non sono stato rapito per 1,5 anni da un gruppo estremista somalo, e quindi non, sinceramente non so come se ne esce da un rapimento di 1,5 anni in un gruppo estremista somalo, e quindi non mi permetto di giudicare. Però insomma, a me stupisce l'ondata di odio che costringe, per esempio, ha costretto alcuni quotidiani a bloccare i commenti sulle pagine che riguardavano Silvia Romano. Il Corriere della Sera ha bloccato su Instagram i commenti alla foto di Silvia Romano che abbraccia la famiglia, tanto per dare un'idea, perché il livello era sceso troppo. Allora, il tema è un po' questo, e ancora devo dire, questa cosa non siete riusciti a spiegarmela in maniera coerente. Andiamo però e torniamo sulle questioni Covid. Questa è una questione sicuramente interessante, che colpisce tutti noi e quindi non possiamo ignorarla. Poi ci sono delle questioni generali che riguardano tutti noi, riguardano la nostra vita e la nostra economia e come andremo avanti nei prossimi mesi. Si diceva, il turismo, il settore del turismo, il settore della ristorazione, insomma, sicuramente quelli più colpiti, lo stiamo dicendo da giorni, e da settimane direi, settore del turismo che con l'associazione Confindustria di settore insomma oggi fa sentire la sua voce. Siamo a pagina 6 del Sole 24 Ore con l'ira degli albergatori che viene raccontata da Enrico Netti. Al turismo solo 50 milioni. Alla Newco pubblica di Alitalia, da decenni alla ricerca della via del risanamento. È anche buono Enrico Netti, in questo pezzo, alla via del risanamento, io direi, alla via del non fallimento, da decenni alla ricerca della via del non fallimento, ecco pronto un investimento monster da non meno di 3 miliardi per il rilancio della rediviva compagnia di bandiera. Ecco una dicotomia contenuta in quello che sarà il decreto maggio che scatena la rabbia degli alberghi, in particolare quelli associati a Confindustria e alberghi. Quello che ci lascia sbigottiti è la sproporzione tra queste due misure. Mentre non ci sono aiuti concreti e tangibili per le aziende alberghiere, soprattutto stralci di tasse e paracaduti a fondo perduto, indispensabili alle aziende dell'ospitalità. A parlare è Elisabetta Fabbri, presidente e amministratore delegato di Star Hotels, gruppo socio appunto di Confindustria e alberghi. Il gruppo quest'anno prevede un crollo del fatturato dell'80%. 80%. Le nostre attività sono azzerate e con i dipendenti in cassa integrazione cosa riceviamo? Il nulla. Mancano le condizioni economiche per la riapertura e noi non riapriremo. Su questo siamo compatti, chiediamo che vengano ascoltati gli esperti del settore, ma evidentemente non è stata compresa la gravità della situazione e le misure sono del tutto inadeguate per un comparto che con tutto l'indotto genera 450 miliardi di ricavi e rappresenta il 15% dell'occupazione in Italia. E dunque ci sono le nuove regole, c'è la questione delle nuove regole. Quali sono queste nuove regole? 4 metri al ristorante per ogni cliente. Potete ben immaginare che quando è uscita questa indicazione dal comitato tecnico scientifico, i ristoratori, i baristi, insomma tutti quelli che hanno dei tavoli in un locale sono letteralmente impazziti, perché come racconta FIPE Confcommercio, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, a pagina 12 del Corriere della Sera, in un pezzo firmato da Monica Guerzoni, con una persona ogni 4 metri quadri i ristoranti italiani perderebbero in un solo colpo 4 milioni di posti a sedere, il 60% del totale. Ok, il 60% del totale, questa è la dimensione, ovviamente distribuita variamente, perché ci sono ristoranti che hanno già i tavoli un po' più larghi e ci sono ristoranti invece che ce l'hanno molto più stretti, e probabilmente quelli dovranno chiudere definitivamente oppure fare un solo tavolino. La stessa preoccupazione assilla le imprese di fare rete, imporre distanze eccessive tra clienti, così come procedure di sanificazione complesse e l'utilizzo dei divisori in plexiglass, vuol dire non far riaprire i ristoranti. Come capite, il problema c'è, perché da una parte c'è ovviamente la questione sanitaria e dall'altra parte c'è la questione di queste aziende che rischiano di non riaprire più. 4 metri quadrati per ogni cliente, 2 metri tra un tavolo e l'altro. Queste le regole auree della ripartenza, scrive Guerzoni. La prima norma è stabilire un limite di capienza predeterminato. Per capire quante persone alla volta potranno entrare in un locale, bisognerà dunque dividere la superficie coperta per i 4 metri quadri destinati a ciascun cliente. E quindi si ragiona sui tavoli all'aperto, naturalmente. La sindaca Virginia Raggi a Roma ha annunciato che gli spazi all'aperto per i pubblici esercizi aumenteranno del 35% e che la concessione di suolo pubblico sarà assegnata in 24 ore. Speriamo che sia davvero così. Certo però che non è la soluzione, forse qualcosa di diverso andrà pensato. Ancora sul fronte economico, molto rapidamente vi voglio segnalare, sempre dal Sole 24 Ore a pagina 8, il tema dell'industria. Oggi il Sole 24 Ore pubblica una lettera dei 3 presidenti di Confindustria, italiana, francese e tedesca, che chiedono un piano ambizioso europeo per la ripresa. Serve uno sforzo senza precedenti per tornare a crescere e difendere la competitività delle imprese, racconta Nicoletta Picchio a commento di questo appunto lungo e articolato intervento dei 3 presidenti di Confindustria, appunto articolato su 6 punti fondamentali. E sempre Nicoletta Picchio intervista a proposito invece del decreto rilancio, ci torneremo tra un attimo, anche sulla parte politica del decreto rilancio, intervista il vicepresidente di Confindustria, Emanuele Orsini, designato, sarà vicepresidente di Confindustria con delega credito, finanza e fisco. I nuovi vertici saranno ufficialmente nominati il 20 maggio, ma si sono già messi al lavoro. Il tema qual è? È quello del taglio dell'IRAP. Per fare un decreto per salvare le imprese occorre coinvolgere i diretti interessati, gli imprenditori, dice Orsini, intervistato da Nicoletta Picchio. Occorre capire i loro bisogni reali, altrimenti va a finire come con il decreto liquidità e il Cura Italia. I soldi alle aziende non sono ancora arrivati e la cassa integrazione, racconta Orsini, la stiamo anticipando noi. Traffico. Mattino. E siamo dunque alla vicenda della liberazione di Silvia Romano. Potete immaginare le molte pagine sui quotidiani che trovate in giro di opposta, anche di opposta lettura di questa situazione. Vi citavamo già quello che scrive il giornale. Ci sono un paio di fronti interessanti dal Corriere della Sera, dalla Repubblica direi e dalla Stampa oggi voglio pescare, e hanno a che fare con innanzitutto il tema e la riflessione che già ieri abbiamo avviato, ben lo sapete, con Maria Latella, avevamo ospite Pippo Civati, su questa piccola ONG, con organizzazione non governativa, con la quale Silvia Romano è andata in Africa, e quindi i rischi ai quali questa ragazza è stata esposta. Pagina 5 Corriere della Sera, con Francesco Battistini, che è quasi un retroscena. Mi hanno mandata allo sbaraglio. Il sorriso di Silvia Romano nasconde anche qualche dente aguzzo, e forse i 535 giorni di prigionia hanno cancellato un po' di ingenuità. Domenica pomeriggio, interrogata dai magistrati, la ragazza milanese ha detto chiaro e tondo d'essersi sentita in un avamposto solitario il giorno nel quale fu rapita, e che a Chakama, nella scuoletta della savana, forse non era il caso di trovarsi in quelle condizioni. L'unica bianca, senza scorta, senza collaboratori, abbandonata lì con la sua straordinaria inesperienza. Il racconto di Silvia ha fatto infuriare i genitori. La famiglia Romano aveva già rotto i rapporti con l'Onlus Africa Milele di Fano e con la responsabile Lilian Sora, che aveva ingaggiato la loro figlia. Ma ora domanda che si faccia qualcosa di più. Non c'è ancora una delega formale al ROS dei Carabinieri, ma la Procura di Roma intende riprendere in mano il dossier della Farnesina e i controlli che l'unità di crisi aveva intrapreso dopo il rapimento su quell'attività di volontariato messa in piedi a decine di chilometri da Malindi. Racconta, si difende poi appunto la Onlus. Silvia non è stata mandata sola, è partita con due volontari, ad aspettarli c'era il mio compagno con un altro addetto alla sicurezza. Gli uomini dovevano rientrare a Malindi il 19 novembre, Silvia doveva andare con loro, ci fu un intoppo, la ragazza fu lasciata sola, rimase sola a Chakama e il 20 appunto fu sequestrata. È interessante, mi sembra, oggi il pezzo, meglio l'intervista di Pietro Del Re sul quotidiano La Repubblica a un esponente di Al-Shabaab, il portavoce del gruppo terrorista Ali Dehere. Al-Shabaab, lo ricordiamo, è un gruppo terrorista che opera prevalentemente in Somalia e che ha messo a segno tutta una serie di sanguinosi attentati. E perché mai avremmo dovuto maltrattarla? Silvia Romano rappresentava per noi una preziosa merce di scambio. E poi è una donna, e noi di Al-Shabaab nutriamo un grande rispetto per le donne. È grazie a un politico di Mogadiscio che riusciamo a raggiungere al telefono Ali Dehere, portavoce del gruppo terrorista Al-Shabaab, responsabile di decine di spaventosi attentati con cui da una quindicina d'anni funesta la Somalia. In nome di questa spietata organizzazione dell'estremismo islamista, Dehere rivendica il sequestro della ragazza che chiama con il suo nome e il suo cognome italiani e non con il nuovo nome da convertita all'Islam, Aisha. Il portavoce confessa poi che parte del riscatto pagato per la sua liberazione servirà a comprare armi per la jihad. Prima dell'intervista premette che ad alcune domande non potrà rispondere per ovvie motivi di sicurezza. Ad esempio, a quanto ammontava il riscatto? No comment è la risposta del portavoce di Al-Shabaab. In parte quei soldi serviranno ad acquistare armi, di cui abbiamo sempre più bisogno per portare avanti la jihad, la nostra guerra santa. Il resto servirà a gestire il paese, a pagare le scuole, a comprare il cibo e le medicine che distribuiamo al nostro popolo, a formare i poliziotti che mantengono l'ordine e fanno rispettare le leggi del Corano. Spiega anche qual è la differenza tra Silvia e i prigionieri di guerra. Silvia era un ostaggio, non una prigioniera di guerra. I prigionieri di guerra li passiamo per le armi, esattamente come fa l'esercito somalo quando cattura un soldato di Al-Shabaab. Prima di giustiziare i prigionieri, le truppe di Mogadiscio li torturano per farli parlare, per estorcere tutte le informazioni possibili. Ma i nostri soldati sono addestrati anche a soffrire. Insomma, non commenta neanche perché sia durato così tanto il sequestro di Silvia Romano alla domanda quante volte avete cambiato nascondiglio, tante. Insomma, è un'intervista un po' elusiva, e però è un'intervista che dà la misura anche sul come verrà utilizzato questo denaro. Ancora vi voglio segnalare sulla vicenda di Silvia Romano e sulla conversione. C'è un ottimo pezzo di Francesca Paci sul quotidiano La Stampa, a pagina 8, studenti, giovani e soprattutto donne. Ecco chi sono i convertiti d'Italia. È un racconto appunto su chi sono i convertiti. Senza entrare nel merito della sfera privata, è plausibile che si tratti di una conversione spontanea, racconta Stefano Allievi, lo studioso italiano più ferrato in tema di convertiti. Ci sono donne che, dopo aver divorziato dal marito musulmano manesco e violento, hanno abbracciato il Corano. Molte donne italiane, una buona parte dei circa 60.000 nostri connazionali convertiti all'Islam, si sono avvicinate così, grazie ai mariti, naturalmente, soprattutto le più giovani. Fino a qualche anno fa i convertiti erano figli degli anni 70, musulmani compiutisi lungo un percorso politico, eredi dell'esoterismo destrorso di René Guénon o della sinistra extraparlamentare alla riscossa sull'Occidente capitalista. E adesso le cose stanno cambiando. Sempre La Stampa ha un'intervista che realizza Chiara Baldi con Mahmoud Asfa del Centro Islamico di Milano, il quale dice: difficile pensare a una libera decisione nata in prigionia. Lasciamo la vicenda di Silvia Romano e torniamo sulle questioni Covid correlate alla politica, direi, a questo punto, perché all'ombra della vicenda del decreto rilancio e all'ombra dell'ipotesi di sanatoria per i migranti con permessi di soggiorno provvisori semestrali, si è acceso uno scontro all'interno della maggioranza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, e apparentemente, stando a quanto raccontano i giornali, anche all'interno dello stesso Movimento 5 Stelle, tra le due ali che sempre si sono contrapposte, è sempre stato raccontato che si sono contrapposte, basta vedere le dichiarazioni: un'ala di destra, un'ala un po' più di destra, un'ala un po' più di sinistra, un'ala contraria per esempio a questa regolarizzazione e l'area invece favorevole a questa regolarizzazione. Uno stop, quello arrivato ieri, che secondo per esempio il quotidiano La Repubblica ci racconta di una vittoria di Luigi Di Maio, cioè di un ritorno sulla scena di Luigi Di Maio, che avrebbe abbandonato la guida del partito, lo sappiamo, se ne scrive bene Annalisa Cuzzocrea appunto sul quotidiano La Repubblica, che insomma molto si occupa delle vicende dei 5 Stelle, e però in realtà di fatto non l'avrebbe abbandonata. A dare questa spia, a dare questo segnale c'è Carlo Sibilia, che era ai tempi un acerrimo avversario di Luigi Di Maio, ora è diventato uno dei più fedeli seguaci del ministro degli esteri ed è stato il primo esponente di governo a esporsi contro la regolarizzazione degli immigrati che lavorano nei campi o nelle case degli italiani. Come lui c'è una folta truppa di parlamentari che, appoggiata dallo stesso reggente Vito Crimi, è tornata nell'ultima assemblea congiunta a far sentire forte la propria voce. Ne parla anche il Corriere della Sera, pagina 8, con un movimento che ribolle tra chat e telefonate, e questa sinistra del movimento che sarebbe all'angolo, stando a Emanuele Buzzi appunto sul Corriere della Sera. Più concretamente invece Lina Palmerini sul Sole 24 Ore ci porta su questo maledetto decreto rilancio che doveva appunto essere approvato e poi non è stato approvato e forse arriverà all'approvazione oggi, e che però, come dice Lina Palmerini, sembra una tela di Penelope, quel testo del decreto rilancio su cui ancora ieri si litigava nella maggioranza fino a far slittare il Consiglio dei Ministri, perché come quella tela ogni giorno se ne scrive un pezzo e poi viene disfatto in base alle reazioni che suscita nelle categorie produttive e sociali o ai ripensamenti dei partiti, con tutta una serie di alleanze e controalleanze tra Italia Viva, che sulla questione dei migranti insieme al PD, sulla questione dell'IRAP e contro Gualtieri, e non si capisce bene, il Movimento 5 Stelle che su alcune cose sta da una parte, su altre dall'altra, esattamente come il Partito Democratico. La morale è, conclude Palmerini, che la sgangheratezza politica si coglie in quel labirinto di 250 e passa articoli che ieri sono approdati a Palazzo Chigi, un mostro giuridico in cui, prima ancora che il giudizio sulle singole misure, si coglie l'assenza di metodo, se non quello di spartire tra le forze politiche i soldi e le relative norme. Tanti strati di mediazione in attesa che si arrivi all'altro nodo, il MES. E qua c'è da dire che resta un mistero per quale ragione l'Italia, quindi Conte e Gualtieri, abbiano insistito e vinto per non avere condizionalità se non faranno richiesta di quella linea di credito, come sostengono i 5 Stelle. Una domanda che, scrive Lina Palmerini, a Bruxelles già gira. Oh, giusto per darvi un'idea, la bozza del decreto rilancio al momento conta 438 pagine. La cosa sulla quale voglio chiudere, beh, insomma, la questione delle mascherine. Ragazzi, ancora non ci siamo. Ieri Federfarma Servizi, che è la parte dell'associazione delle farmacie che si occupa di fatto della distribuzione, ha detto: oh, non ce ne sono e non ce ne sono a quel prezzo, perché che cosa succede? Succede che i produttori cinesi, dato che anche Francia e Spagna hanno fissato il prezzo, ma l'hanno fissato più correlato, se vogliamo, al mercato, a 96 centesimi più IVA, e i produttori cinesi le stanno inviando in Spagna e in Francia, prediligendo quei mercati rispetto all'Italia. E ieri nuovamente Arcuri, che aveva fissato il prezzo a 50 centesimi più IVA, si è arrabbiato con gli stessi farmacisti, li ha riconvocati di nuovo, si sono scontrati nuovamente. Siamo a pagina 17 del Corriere della Sera, lo raccontano bene Margherita De Bacca e Maria Silvia Sacchi, così come lo racconta bene Fausto Carioti sul Libero, che dice, il titolo del pezzo dice tutto: è possibile che guanti alcol siano introvabili? Ci risentiamo tra poco con Maria Latella, parleremo della vicenda di Silvia Romano e poi anche del decreto rilancio. Tra poco.